Peonia non alzò gli occhi dal vassoio. Si approssimò al tavolo, ne liberò un angolo dai libri e dalle carte, vi depose le tazze e le ciotole coi bastoncini e al centro, in bella mostra, un piatto con del pasticcio di maiale. In un altro piatto erano pasticcetti di farina di riso bagnati in sciroppo di zucchero bruno. «Ho pensato che tu e il tuo amico gradirete questa roba», disse con voce tranquilla. Aiwan, che non si aspettava quella premura, disse con gratitudine: «Grazie, Peonia». Poi, voltosi a Elan, soggiunse: «Questa è la Peonia di cui ti ho parlato. E a Peonia, ti presento Elan». I due si guardarono. Poi Elan si alzò, rigirando il berretto fra le mani, finché Peonia ruppe il ghiaccio, dicendo con la sua voce argentina e staccata: «Prego, non occorre che vi alziate davanti a me. Io non sono della famiglia. Io appartengo al personale di servizio». «Se è per questo», rispose Lan, «io non sono che il figlio di un contadino che mai prima d'ora era stato in una casa come questa». Tornarono a guardarsi e più che mai Aiwan si sentì il ragazzo solitario chiuso nel giardino. «Voi avete pensato che io potessi fare la spia?» disse lentamente Peonia rivolta a Lan, «ma vi assicuro che non aprirò bocca». Lan rispose con uguale lentezza: «Non so perché mi è venuto in mente che voi poteste parlare. Certo, perché non vi conoscevo». A questo punto Peonia tornò a ricordarsi delle sue funzioni. Distolse gli occhi da Enlan e, rivolta ad Aiwan, disse con tono usato: «Aiwan, dovete mangiare mentre la roba è calda. Sedete, sedete tutti e due». «Ma», disse allegramente Enlan, «perché non sediamo tutti e tre?» Da quando Peoni era in quella casa non si era mai seduta a mensa con Aiwan, non ci aveva mai nemmeno pensato. Ora l'invito arrivava come una sorpresa anche per Aiwan e la cosa non sfuggì a Peonia, perciò si affrettò a dire: «Oh, io sono abituata a servire e non a sedere a mensa». «Io non mi siederò», disse con calore Lan, «se non in compagnia di voi due. Nella rivoluzione non esistono categorie distinte di serviti e di servitori, eh? Aiwan, siamo tutti pari». Una luce si fece nel cervello di Aiwan. Come mai? Non ci aveva pensato prima. Egli, che fuori di casa non aveva fatto che pensare alla rivoluzione, non aveva saputo attuarla qui, in quella sua stanza. Dominando un senso di sciocco ritegno nei riguardi di Peonia, disse: «Sì, Peonia, siedi con noi, perché no?» Ella esitava fra i due, guardando ora l'uno e ora l'altro, rossa in volto come il fiore di cui aveva il nome, disse ad Aiwan: «Che cosa direbbero tuo padre e tua madre se entrando qui dentro improvvisamente mi vedessero seduta a mensa con te? Non potremmo mica addurre il motivo della rivoluzione». Enlan s'avvicinò a gran passi alla porta e girò la chiave nella toppa. «Siedi», le ordinò. Peonia finì con l'obbedire, ancora rossa in viso, e cominciò a servire porzioni di pasticcio di maiale. «Eccoci dunque», disse Lan, guardando allegramente i suoi due commensali. «Fa piacere essere insieme. Io ho la fame di un cane famelico». Aiwan non vinse subito la sua timidezza. Doveva lottare contro un curioso senso di soggezione nei confronti di Peonia, che non aveva mai vista a tavola con lui. Ma presto se ne dimenticò. Ne dimenticò di essere il ragazzo solitario che era sempre stato. Mangiavano tutti insieme ora e anche lui aveva fame. Peonia spelluzzicava delicatamente coi suoi bastoncini ora questa, ora quella portata, tacendo per lasciarli mangiare in pace. Poi, protendendo il busto verso il lan, «Ditemi», fece gravemente, «qualche cosa di più preciso su questa rivoluzione. Voglio poterci credere». E non si fece ripetere l'invito e cominciò a parlare. Aiwan guardava il volto di Peonia in ascolto e pensò: «Anch'io credo alla rivoluzione, più che mai credo». Sembrava fosse già venuta lì in quella stanza. Partito Enlan, Peonia tornò a sedere per un momento. «Non mi avevi mai detto in che cosa consistesse davvero la rivoluzione», disse. «Non mi avresti creduto». Ella rise. «Forse no. È difficile credere a cose tanto importanti quando ne parla un ragazzo conosciuto sin dall'infanzia». Rimase un momento assorta, col viso che le mutava col mutar dei pensieri. Egli non li poteva indovinare, ne era vagamente geloso. «Comunque sono lieto che ora tu ci creda», disse. «Ora possiamo parlare della rivoluzione. L'attesa non sarà lunga». Ella si alzò. Nel frattempo, disse, dovrò andare avanti come sempre. Tua nonna starà per svegliarsi. Raccolse le ciotole sulla tavola. Come ha mangiato? Disse, riferendosi ad Enlan. Mi fa piacere vedere un giovane di così robusto appetito. Ritorna, la pregò Aiwan. Ho bisogno di dirti qualche cosa ancora. Quando parlavano, la rivoluzione diveniva una realtà inevitabile che nulla avrebbe potuto ritardare, perciò ad Aiwan avrebbe fatto piacere ragionarne ancora con Peonia, ma ella scosse il capo. No, non stasera, disse con fermezza. Nulla poteva arrestare la trionfante marcia di Chiang Kai-shek, che, partito da Hankou, calava ora col suo grande esercito seguendo il corso del fiume. Qiu Kiang, Anqing, Wuhu, le città rivierasche erano altrettanti frutti che egli andava cogliendo. A Shanghai c'era un'atmosfera ardente di attesa e di paura. La gente era arrogante e chiassosa. Si vedevano tiratori di rickshaw che se ne stavano in ozio, rifiutandosi di dare a nolo i loro veicoli. Venditori ambulanti cui non importava più nulla di vendere o meno. Dalla mattina alla sera, accosciati sui marciapiedi, giocavano ai dadi. A che pro lavorare quando arriva Chiang Kai-shek? Dicevano. Pareva una festa generale. Persino nella casa di Aiwan la servitù assumeva arie impudenti e scioperaiole. Uscivano, restavano assenti per delle ore e quando Madama Wu li rimproverava rispondevano: Facciamo parte dell'unione dei lavoratori e facciamo i nostri comodi. Madama se ne lagnò col marito, il quale commentò: È dappertutto lo stesso, ma non va mica avanti un pezzo, non accettiamo un simile stato di cose. Ma come farete? Domandò Aiwan. Anche lui, a onor del vero, si vergognava più che non dicesse. Nel suo animo si faceva strada un'intima meraviglia, quasi un'indignazione, quando, per esempio, gli capitava di trovare il pranzo non pronto. Eppure sapeva bene che anche la servitù, in nome della rivoluzione, aveva i suoi diritti. Mesi prima non aveva forse preso conoscenza dei piani d'adozione della stessa Unione dei lavoratori di cui ora tanto si parlava? Intollerabile, intollerabile, ripeté seccamente suo padre. Come mai una nazione può prosperare quando alla parte infima della sua popolazione si dà così mano libera? Aiwan avrebbe voluto discutere con suo padre, ma in buon punto sentì la mano ammonitrice di Peonia toccargli una spalla. Fu la rivoluzione come lo scatenarsi di una bufera. Il fermento tra il popolo fu come uno scompiglio premonitore, come la commozione sollevata dalle prime ventate. Seguì un'intensa calma d'attesa. E di nuovo Aiwan si sentì come segregato da tutti. Le scuole della città decisero improvvisamente di far vacanza, in seguito a un passo del sindaco, cui non pareva vero di poter, con quel mezzo, disperdere la studentesca e impedirne i comizi. Lo sciopero intanto continuava negli stabilimenti. Enlan aveva ordinato ad Aiwan di non farsi più vedere tra gli operai fino a nuovo ordine, la sorveglianza della polizia essendo strettissima. Ad Aiwan non restò dunque che attendere la sua ora nella quiete della sua casa, ma presentiva imminente la fine e ora gli faceva piacere che Peonia sapesse, così almeno poteva intrattenersi con lei, approfittando dei pochi momenti nei quali restavano soli. Quando cadeva una città e la notizia veniva gridata per le vie, egli la guardava trionfante. Non poté però mai dirsi del tutto sicuro dei sentimenti di Peonia. Un giorno li interrogò a bruciapelo. Erano nel giardino, dove tutto era ormai in boccio. Sei proprio una rivoluzionaria, Peonia? Le domandò tranquillo, palpeggiando le gemme di un rametto. Non so, rispose lei. Aspetto per pronunciarmi, di vederci più chiaro. Allungò una mano e toccò un fiore rosso. Però in qualche cosa crederai, spero. Insistette Aiwan. Devi credere al giusto e all'ingiusto, almeno. Ah, io non sono un apostolo come te, disse Peonia. Tu credi in Chiang Kai-shek come se fosse un dio, ma io so che non è che un uomo. No, non lo credo un dio, replicò Aiwan. Io non credo a nessun dio, credo nella rivoluzione. Ma la rivoluzione è pur sempre opera di uomini, precisò lei. Se fanno bene, io sono con loro. Aiwan sapeva che Peonia aveva torto. Non era giusto misurare la propria fede sul metro di quanto faceva la gente. Le cose erano giuste o ingiuste di loro propria natura. Non poté dimenticare le parole della ragazza. Quella notte, prima di chiudere gli occhi al sonno, serrò a chiave la porta e trasse da un cassetto un'immagine ritagliata da una rivista. Chiang Kai-shek, giovane, seduto, rimase lungamente a contemplarla. Sì, somigliava un poco a Den Lan. Era un viso insieme ardito e buono, aspro e sognante. Non lo adoro, pensò, ma credo in lui. Tutti credevano in lui. Migliaia di giovani intellettuali, migliaia di poveri ignoranti. Da molto tempo erano stati privi di un oggetto di fede e di speranza, da quando l'ultima corrotta dinastia si era spenta a Pechino, lasciando la città vuota. I giovani poi erano rimasti privi di una guida dalla morte di Sun Yat-sen, che insensibilmente, prima che si potessero accorgersene, si era ridotto ad un'ombra. Naturale che tutte le speranze si polarizzassero perciò sul giovane condottiero dell'esercito rivoluzionario. Ora non rimaneva a Chiang Kai-shek che la conquista di Nanchino, l'antica sede dei gloriosi e potentissimi imperatori Ming, e poi sarebbe entrato in Shanghai. Tutti aspettavano da un momento all'altro l'annuncio della caduta di Nanchino, che aveva sbarrato le porte delle antiche mura e si preparava a resistere con le truppe del governo. Ma Nanchino sarebbe caduta lo stesso. Entro quelle mura, infatti, era una moltitudine di gente che anch'essa voleva la rivoluzione. Ai Wan a Shanghai viveva una specie di estasi, in una pienezza fervida che era insieme gioia e tormento. Sapeva che quelli potevano essere i suoi ultimi giorni, nulla di quanto si preparava gli era ignoto. Non appena fosse giunta la nuova che Chiang Kai-shek aveva riportato la vittoria decisiva, egli sarebbe dovuto uscire da quella casa per non farvi mai più ritorno. Si sarebbe presentato al comando rivoluzionario, dove, sapeva, erano ad attenderlo in là e tutti gli altri compagni e compagne pronti a compiere il suo dovere. Una notte lo mormorò a Peoni in camera sua. Essa lo ascoltò attenta. Anche lei in quei giorni era mutata. Non toccava più ai Wan, non scherzava più con lui, né gli suscitava più quel caldo, quel dolce senso di disagio che gli faceva paura. Era tranquilla e affaccendata ora, e la sua presenza non gli dava più ombra. Devi venire con me, Peonia, le disse finalmente. Dimmi il luogo del convegno, forse. Egli scrisse l'indirizzo su di un pezzo di carta. Lei lo lesse, poi bruciò il foglio. Non prometto, disse. Non prometto niente. Ma aveva letto e Aiwan sapeva che Peonia non dimenticava mai nulla. Egli pensava sempre al momento della sua partenza. Voleva esser sicuro di allontanarsi all'istante, così da non farsi trovare in casa dal popolo scatenato. Veder la sua casa invasa non gli avrebbe fatto piacere. Talora di notte si svegliava di soprassalto e restava lungo tempo sveglio, tremava ed era tentato di avvertire suo padre, ma quando già stava per cedere, sempre si tratteneva il pensiero che suo padre avrebbe indagato, avrebbe voluto sapere, con conseguente rovina di Enlan e degli altri, perciò aveva sempre taciuto per quanto duro gli fosse il silenzio. Finalmente, una notte, dopo 3 giorni di quell'intensa attesa, la notizia corse come un fulmine per la città. Nanchino era caduta. Ai Wan andò presto a letto per non sentire i commenti di suo padre, ma non riuscì a chiudere occhio lo stesso. Ecco, era arrivata la sua ultima notte in quella casa, e domani, dove sarebbe stato domani? Rivoltandosi sul letto, prese alfine una risoluzione. Ma era poi una risoluzione? Prima di partire. No, avrebbe dato l'incarico a Peonia. Prima di partire le avrebbe lasciato detto di avvertire i genitori ed indurli a fuggire. Nulla avrebbe potuto accadere prima di mezzogiorno. Le 12 era l'ora stabilita per la proclamazione della rivoluzione. Nelle ore fra l'alba, quando egli avrebbe lasciato la casa, e il mezzodì, i genitori avrebbero potuto scappare. Per un momento lottò con se stesso. Era quell'avvertimento un tradire la rivoluzione? Ma se essa era dato da Peonia e non da lui. Molto tempo dopo la mezzanotte cadde in un sopore agitato. Fra alcune ore fu svegliato prima dell'alba da suo padre, che lo scuoteva per una spalla. Aprì gli occhi. Il volto di suo padre gli apparve bianco e nero nell'ombra, chino su di lui. Alzati! La voce era così gelida che Aiwan si svegliò di colpo. Vestiti! Aiwan si alzò. Che c'è? Chiese. Che succede? Stupido e malvagio sei, esclamò suo padre. E bugiardo, e pazzo! Aiwan non rispose. Dal tempo della sua infanzia aveva sempre amato e temuto suo padre. A differenza di Aiko, che lo aveva sempre solo temuto, ma Aiwan sapeva che suo padre era buono e aveva sempre fatto del suo meglio per obbedirgli, anche quando sua madre o una serva diceva: "Non importa, tuo padre non è a casa." "Che cosa c'è, babbo?" ripeté, ma già indovinava. Suo padre trasse un foglio di tasca, era un grande foglio piegato più volte, e glielo consegnò. Portava centinaia di nomi. Aiwan li lesse ad uno, erano raggruppati sotto le denominazioni delle varie scuole. Ecco il nome della sua, seguivano i nomi di Elan, il suo e quello di tutti i compagni del gruppo. No, ne mancava uno, quello di Peng Liu. Di colpo, Aiwan si ricordò di non aver visto Peng Liu da molto tempo. L'amico aveva fatto dire che non stava bene e che perciò non poteva partecipare alle riunioni del gruppo. Poi qualcuno disse che aveva lasciato la scuola e che era tornato a casa perché non aveva più denaro, e nessuno ci pensò più. Peng Liu non piaceva a nessuno, ma il suo nome, questo era positivo, non figurava nell'elenco. "Sai che cos'è questo?" domandò il signor Wu. "Sì," rispose Aiwan. In cuor suo si disse che non aveva nulla di cui vergognarsi. Non aveva paura. Riconsegnò il foglio. "Dove l'avete preso?" domandò. Suo padre lo guardò duramente. "Non ti deve importare," rispose. "Vestiti subito. Da un momento all'altro possono venire i soldati ad arrestarti. Chiang Kai-shek è arrivato." Aiwan si sentì mancare. "Chiang Kai-shek?" balbettò. "È qui in città," gli ripeté suo padre. "O c'era ieri?" "Ma Nanchino?" balbettò ancora Aiwan. "Ha lasciato Nanchino ai suoi luogotenenti e lui è venuto direttamente a Shanghai. Ti ripeto di vestirti." "Non posso. Ma come fate a sapere, padre?" Sentiva il cuore che gli tonfava nel petto. Come mai suo padre sapeva tutto sul conto di Chiang Kai-shek? Non poteva sapere. "Gli ho parlato ieri." Una luce improvvisa balenò nella mente di Aiwan, riempiendolo di terrore. Suo padre e Chiang Kai-shek? "Ci siamo riuniti. Noi, i banchieri e Chiang Kai-shek." Suo padre parlava con tono staccato, a frasi secche. "Gli abbiamo detto che Shanghai non deve essere turbata da disordini. I nostri affari, se vuole del denaro, intendo per il suo governo, non devono subire scosse. Vuoi vestirti o preferisci farti ammazzare?" "Non può essersi accordato con voi," disse con voce strozzata Yuan. "Poter far sapere la cosa dell'An a tutti gli amici." "Certo che si è accordato," replicò suo padre. "Non è mica uno stupido. Mi ha fatto una grande impressione. Sa il fatto suo, è abile e ragionevole, tutto concordato. Ripulirà la città dai comunisti." Il sangue che era defluito dal cuore di Aiwan ora rifluì violentissimo e si sentì improvvisamente forte, furioso era. "Ci ha traditi!" urlò. Volse la schiena a suo padre e cominciò a singhiozzare. "Tutti ci ha traditi! Noi che credevamo in lui!" Afferrò con rabbia i suoi panni. "Devo uscire, devo trovare tutti i miei compagni, trovare là, li uccideranno tutti." Suo padre gli fu sopra con un balzo e gli afferrò un braccio. "Tu non andrai in nessun posto, filerai soltanto al porto dove c'è una nave pronta a partire per il Giappone," sentenziò. "La macchina è sotto che aspetta, pronta." "Non voglio andare," singhiozzò Iwan. Avesse almeno potuto dominare i suoi singhiozzi, era puerile. "Andrai," sussurrò minaccioso suo padre, "e subito. Non si tratta soltanto di te, si tratta della famiglia. Ho dato la mia parola d'onore che in cambio della cancellazione del tuo nome dall'elenco tu avresti abbandonato oggi stesso la Cina." Aiwan guardò suo padre come paralizzato. "Fate di me un traditore," gridò. Lottava per liberarsi, ma il pugno di suo padre era d'acciaio. "Lo sei già un traditore. Il governo ha condannato a morte tutti i comunisti. La rivoluzione deve essere soffocata. Ha migliaia di nomi, il governo." La stanza parve girare lentamente davanti agli occhi di Aiwan. Vide gli occhi paterni neri nel centro della stanza. Tutto era vuoto di senso, tutto. "Peonia!" Ora suo padre era che chiamava. "Vieni qua subito, Peonia!" Si sentì mancare. Gli cadde tra le braccia. "Dov'è Peonia?" gridava sempre suo padre con voce potente, e come un eco Aiwan percepì nel deliquio la voce del servo che gridava in risposta: "Sparita! Non la troviamo! Peonia è sparita!" 2. La nave passava lenta tra verdi isolette in un fulgore di sole e di azzurri marini. L'aria era tiepida e ferma, non si udiva che lo sciabordare dell'acqua tagliata dalla prua. Negli scenari, fra un'isoletta e l'altra, Aiwan scopriva sciami di battelli e pescherecci giapponesi, vele bianche contro il cielo turchino. Sdraiato sulla sua sedia, contemplava assente quello spettacolo. Quell'apatia lo aiutava a sopportare la sua completa impotenza, non pensare, non ricordare. Qualche volta, reagendo alla vacuità dei pensieri, riaffiorava il vecchio struggimento. Oh, se almeno avesse potuto avvertire Lan! Ma poi anche quell'idea era come cancellata dalla dominante apatia. Non c'era mezzo di avvertire Lan. Forse Lan era già morto. Non poteva nemmeno avvertire Peonia. Dov'era Peonia? Sparita. Fra sé, sordamente, rimuginava pensieri vaghi. Dove e come era andata via? Ricordava chiaramente l'incredulo grido di suo padre. Peonia se n'è andata? Cose lontane. I pensieri e le cose di una volta erano svaniti e così le speranze coltivate in comune. Il pensiero del gruppo a cui aveva appartenuto gli suscitava un rimorso pungente. Certo, i compagni erano tornati agli stabilimenti e avevano ripreso l'opera con lo stesso spirito di una volta, lo spirito di chi ha tutto da rifare. E di lui avrebbero pensato che dopo tutto non era che un bugiardo e forse un traditore. O forse lo avrebbero creduto morto. Magari, magari pensassero così. Unico sollievo era il pensiero che non li avrebbe più riveduti, che non li voleva più rivedere. Ma, sdraiato in quella vacuità di cieli e di acque, assorto nella contemplazione delle isole che scivolavano via una dopo l'altra, era pervenuto al fine a non più odiare suo padre. Si era convinto che la permanenza a Shanghai gli sarebbe stata impossibile, anche ammettendo che non fosse stato ucciso, anzi, specialmente se non fosse stato ucciso. Tornare alla vecchia vita, brutalmente mutilato delle sue idee e dei suoi progetti, ricadere nel tran tran fra casa e scuola, senza speranze in un avvenire qualsiasi, costretto ancora allo spettacolo della nonna nell'atmosfera appestata dall'oppio, no, no, non era possibile. Peonia scomparsa. Certo, i suoi non l'avrebbero cercata, suo padre avrebbe detto semplicemente lasciatela andare, non è in fondo che una serva, venga senz'altro un'altra al suo posto. Impossibile pensarci troppo. Chiuse gli occhi, le palpebre gli dolevano, sentiva il cuore come stritolato nel petto. C'erano molti modi di spezzare un cuore. I romanzi erano pieni di cuori spezzati per amore, ma quel che veramente spezzava un cuore era la fine dei sogni. Quali che essi potessero essere. Così giaceva nel gran vuoto che lo circondava, abbandonato alla corrente del suo destino. Il venticello lo carezzava, udì la voce di un marinaio che chiamava qualcuno, essa risuonò musicale nel silenzio. Niente aveva più senso. Chiuse gli occhi, oblio delle notti e dei giorni, alla deriva del tempo. Gli sarebbe piaciuto rimanere sulla nave per sempre, ma naturalmente non era possibile. Fra breve la nave avrebbe approdato a Nagasaki, meta ultima del biglietto di cui era munito. Aveva con sé le istruzioni scritte di suo padre e le rilesse, poiché non gli importava più nulla di nulla, tanto valeva seguirle. Allo sbarco, così lesse sul foglio coperto della spessa calligrafia di suo padre, avrebbe trovato a riceverlo qualcuno che lo avrebbe accompagnato in casa di un mercante, certo Muraki. Il signor Muraki, scriveva suo padre, è un vecchio amico e ti accoglierà in casa sua. Gli ho chiesto che ti dia un posto nella sua azienda. Naturalmente non ti preoccupare di vivere coi tuoi guadagni. Fammi sapere quel che ti occorre, dopo che tu abbia speso quel che ti ho dato. Ma voglio che tu lavori e quando giudicherò che tu possa tornare senza pericolo, tornerai. Non tornerò mai. Si disse Aiwan nella sua cabina, piuttosto che tornare in una Cina diversa da quella dei suoi sogni, avrebbe preferito l'eterno esilio. Egli non aveva patria. Chiuse la valigia, l'afferrò e salì sul ponte. Era già mezzogiorno e la nave procedeva a rilento verso il suo ancoraggio nella baia. La terra aveva un aspetto per lui non familiare, la montagna strapiombava quasi. Sul mare la città sorgeva lunga nell'angusta striscia tra la rupe e la spiaggia. Le case erano angolose e basse, le tegole dei tetti piatte luccicavano al sole, ma sulle cime dei monti era una nuvola greve e nera, gonfia di pioggia. Attorno alla nave cominciavano ad affluire maone cariche di carbone, si vedevano i facchini giapponesi, uomini e donne piccoli e tarchiati, prepararsi curve a passarsi da spalla a spalla le ceste del combustibile. Aiwan li sentiva chiacchierare e non gli suonò strano quell'incomprensibile linguaggio non suo. Nulla più per lui poteva essere strano, tutto gli era già accaduto e tutto era finito. Valigia alla mano, seguì il rivolo di gente che scendeva per l'instabile barcarizzo calato lungo un fianco della nave e prese posto su una piccola lancia a vapore. A bordo non aveva parlato con nessuno e non aveva perciò conoscenze. La maggior parte dei passeggeri che scendevano erano americani, desiderosi di approfittare della sosta della nave per compiere un giro in città. Ad Aiwan il loro inglese riusciva particolarmente ostico. Lui era abituato all'inglese britannico di Miss Maitland e del signor Ranald. Rievocando il Ranald, pensò per un istante a Peng Liu e al famoso progetto di includere quell'insegnante nella lista nera dei condannati a morte. Quella lista nera, pensò sordamente, è Peng Liu che ci ha traditi. Ma subito tornò a circondarsi del suo vuoto. Peng Liu non aveva importanza. In quanto a Miss Maitland e a Ranald, essi certo facevano lezione come di consueto, unica differenza, qualche posto vuoto nelle loro classi. Che ne era di Enlan? Morto? Non lo avrebbe mai saputo.